questo spazio è uno spazio che ormai da anni è vivo nella città di Bologna, è uno spazio che si occupa di rigenerazione, si occupa di sostenibilità, si occupa di rapporto tra uomo e ambiente, e si occupa di nuovi immaginari. Qui dentro lavoriamo con la nostra cooperativa e poi cerchiamo di restituire alla città una dimensione culturale sempre più ricca e possibilmente molteplice e plurale. Un paio di eventi che ti senti di segnalare tra tutti quelli che ci avete raccontato? Allora, ecco, lo diciamo prima, sì, secondo me forse le cose più significative di quest'anno sono quelle che hanno a che fare, come dire, con un focus che è quello della sostenibilità, che lo so che è una parola molto abusata, ma presa sotto due aspetti specifici, sia quello ambientale, per il quale vi segnalo il format Soffioni, il vento ecologico delle narrazioni, che è un mini format dedicato alla letteratura, alle presentazioni di libri legati al rapporto uomo-natura, al rapporto con le nostre città e con i nostri immaginari. Interverranno personaggi come Tiziano Fratus, Antonio Moresco, Mino Petazzini. Lato sostenibilità ambientale. Molto importante è quello, è una novità di quest'anno, è quello focus sulla sostenibilità sociale, con due mini festival che si occupano di due temi molto che sentiamo molto caldi, su cui lavoriamo come cooperativa e che quest'anno cerchiamo di restituire anche sotto forma di eventi, che sono i temi delle migrazioni, in particolare con questo festival che si chiamerà Inside Out, dove racconteremo attraverso i temi della autonomia sociale, lavorativa e abitativa, prendendola da tre aspetti che sono quelli della bellezza, del talento, con degli ospiti molto importanti. Ci sarà Jara Khan, attivista femminista nera militante, che racconterà la sua esperienza. Ci sarà una scrittrice molto in gamba che viene dallo Sri Lanka, il cui nome è abbastanza pronunciabile, ma ci provo, Nadesha Uyangoda, che verrà a presentare questo libro molto molto bello che si chiama L'unica persona nella stanza. E l'altro è quello che riguarda un mini festival che abbiamo chiamato Persone, che si occuperà delle tematiche legate all'identità di genere, perché come Kiribat stiamo seguendo insieme al gruppo trans un progetto di formazione per avvio al lavoro di persone transgender non binarie, e anche in questo caso abbiamo voluto dedicare 5 giorni della nostra programmazione a questi temi. Quindi rifletteremo sugli stereotipi di genere, sull'identità di genere, sull'educazione alle differenze, con una serie di eventi che vanno da presentazioni di fumetti a film. Ci sarà Norma al Via delle Tulli, ci sarà Una persona fantastica, che è un film, uno dei primi film che ha come protagonista una donna trans che ha vinto l'Oscar come miglior film straniero 3 anni fa. Ci sarà Giuseppe Modenese Palumbo, musicista di punta della scena indipendente trans non binaria. Direi che questi sono i 3 eventi. Per partecipare basta venire qui, bisogna prenotarsi? Tutto rigorosamente gratuito, senza prenotazioni. Abbiamo un numero limitato di posti, ma per fortuna abbiamo abbastanza spazi per poter accogliere sempre tutti, quindi nessuna prenotazione, nessun costo.